la casa dove lui, dove lei sono stati, lei con lui, lui con lei. C'è un telefono che mai più squillerà. È un tavolo che mai più servirà. Nella casa dove lui, dove lei sono stati, lei con lui, lui con lei. C'è una storia che nessuno mai saprà. È una storia che nessuno racconterà. Quel che so è che mai più lui a lei ritorneranno, lei con lui, lui con lei ritorneranno, lei con lui, lui con lei.